Tra ta tra te, la mamma la vascola, e il papà al vanta al bosch, porta canna, mica e los, e na rama, zanguaninda, daghi botar so fiulè.